e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Focus Economia. Benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. È mercoledì 21 luglio ed è una giornata piuttosto fitta. Come sapete, si è aperta con i conti della Fiat e con i dettagli sullo scorporo. Di questo parleremo più avanti, ve lo accennava già il giornale radio poco fa, perché è ancora in corso tra l'altro la conference call dell'amministratore delegato Sergio Marchionne con gli analisti, e vedremo quindi di ragionarci un pochino più a mente fredda. Nel frattempo si registrano tensioni anche sul fronte sindacale per quanto riguarda Fiat. Accenneremo tra pochissimo alla vicenda Finmeccanica, inteso come il taglio deciso dal Ministero della Difesa, del quale vi abbiamo parlato ieri, delle commesse per i 25 Eurofighter, ossia per 2 miliardi di euro. Al consorzio Eurofighter partecipa anche Finmeccanica. Poco fa la nostra Cristina Balotelli ha intervistato il ministro degli esteri Franco Frattini su questo tema e ascolteremo l'intervista. Parleremo naturalmente di manovra. Già arriva una domanda al 349-238-6666 di un ascoltatore. Gianluca ci chiede, facciamo un po' di numeri, cosa vuol dire il taglio del 10% sulle indennità dei parlamentari, della quale avete sentito nel giornale radio. Possiamo intanto dare una risposta a Gianluca e dire che riguarda l'indennità pura e semplice, ossia il solo stipendio, che vuol dire che ai deputati il taglio costerà circa 550 euro al mese, e questo è il taglio del 10% dell'indennità. Questo per darvi un attimo la misura, e appunto questa è solamente l'indennità. Parleremo di manovra anche perché stamattina ne ha parlato il ministro dell'economia Giulio Tremonti in commissione bilancio alla Camera, e poi è intervenuto anche sul federalismo. Per quanto riguarda le borse, solo un accenno e poi come al solito approfondiremo. Il quadro è complessivamente positivo, anche se c'è un lieve peggioramento. In quest'ultima fase il FTSE All Share guadagna lo 0,68%, il FTSE MIB lo 0,66%, è negativa l'America dello 0,20% sul Dow Jones e dello 0,5% sul Nasdaq. Domina oggi proprio Fiat, un guadagno del 6,18% sul listino italiano. Euro che quota 1,28,12 contro dollaro. Le notizie in breve di questa giornata. Iniziamo dal petrolio. A New York ha aperto il rialzo a 78,49 dollari al barile, un più 1,2%. Si è in attesa delle scorte settimanali americane. Vedremo se saremo in grado di darvele e di dirvi come reagisce il greggio. Sul fronte crisi è iniziato questa mattina, o meglio, c'è stato questa mattina l'incontro nella sede della BCE di Jean-Claude Trichet, il presidente della Banca Centrale Europea, con i banchieri coinvolti nei cosiddetti stress test, ossia i test di resistenza sulle banche di fronte ad uno scenario di crisi. A fronte di uno scenario di crisi, sui quali stress test, come vi dicevamo, nei dettagli si avranno venerdì a borse chiuse, si appunta qualche critica. C'è chi dice, come il Financial Times oggi, che i criteri siano un pochino troppo morbidi. Vedremo se riusciremo ad approfondire l'argomento venerdì, appunto prima della pubblicazione degli stress test, capire un attimo quali sono questi criteri. Per quanto, secondo la cancelliera tedesca Angela Merkel, gli stress test riflettono la realtà. A proposito di banche, ci sono oggi i risultati di Morgan Stanley, che ha archiviato il bilancio del secondo trimestre con un risultato superiore alle attese degli analisti. L'utile netto è salito a 1,96 miliardi di dollari, pari a 1,09 dollari per azione, dai 149 milioni, ossia una perdita di 1,10 dollari per azione segnata nello stesso periodo del 2009. Ieri vi abbiamo dato i risultati delle aste di obbligazioni di Stato per i paesi cosiddetti a rischio, tra cui Irlanda, Spagna e Grecia, che erano andate tutte bene, mentre invece sono andate abbastanza male quelle per quanto riguarda la Germania. Sono state deluse le attese. Per i 4 miliardi di obbligazioni sono stati piazzati solo 3,764 miliardi in titoli trentennali. È certo che quando ci sono in giro cose come le obbligazioni greche che rendono circa il 4%, insomma, per la Germania diventa un pochino più difficile. Dicevamo di Finmeccanica. L'eventuale taglio della tranche B di 25 caccia Eurofighter da parte dell'Italia non impatta sui conti di Alenia Aeronautica e di Finmeccanica, dice l'amministratore delegato di Alenia, Giuseppe Giordo, al Salone dell'Aerospazio di Farnborough. Il ministro degli esteri Franco Frattini sta visitando appunto il salone in questo momento. Lo ha intervistato poco fa la nostra Cristina Balotelli proprio su questo tema degli Eurofighter. Siamo certi che con la nostra diplomazia economica riusciremo a trovare nuove occasioni per investimento in altri paesi che sono meno drammaticamente di noi obbligati a tagliare in questo settore. Quello che è certo è che l'alta tecnologia italiana, in qualche modo dimostrata dalla presenza internazionale, continuerà a essere sempre al top anche delle scelte di altri paesi. Però si parla di 2 miliardi di euro in totale. Certamente, questo è un taglio alla difesa italiana che corrisponde a tagli talvolta più drammatici ancora, penso ai tagli alla difesa britannica. Evidentemente vuol dire guardare altrove. I paesi hanno una possibilità in più di proseguire investimenti in un settore così importante. È evidente che questi tagli sono oggi una drammatica necessità a cui ci dobbiamo piegare, ma Finmeccanica ha un gruppo che spazia dall'avionica ai sistemi di sicurezza, al controllo radar, e quindi il nostro sostegno continuerà ovviamente in tutti i paesi. Anche se sul fronte industriale non è molto tranquillizzante, pericolo posti di lavoro? Pericolo posti di lavoro non mi viene rappresentato dai dirigenti Finmeccanica che ho incontrato a lungo qui a Londra. Mi viene rappresentata anche la creazione di molti e nuovi posti di lavoro, quindi io vedo delle promettenti possibilità per il futuro. Questo era il ministro degli esteri Franco Frattini, intervistato da Cristina Balotelli. Vi dicevamo delle scorte settimanali di petrolio in arrivo dagli Stati Uniti, sono appena stati diffusi i dati, sono cresciute di 360.000 barili, mentre gli analisti si attendevano un ribasso di 1,3 milioni di barili. Vedremo se saremo in grado anche di darvi l'impatto sul prezzo del greggio a breve. Ancora notizie societarie, quelle che riguardano Fiat naturalmente. Utile netto del trimestre, del secondo trimestre, 113 milioni, ricavi in crescita del 12,5%. Grande soddisfazione, lo avete sentito anche nel giornale radio dall'amministratore delegato Sergio Marchionne. Per quanto riguarda il semestre, utile a 92 milioni, ricavi a 27,7 miliardi, un più 13,5%. E tra l'altro, note di ottimismo, gli obiettivi del gruppo Fiat per il 2010 si è letto nella nota di questa mattina, rimangono invariati ma saranno probabilmente rivisti al rialzo sulla base dei risultati del terzo trimestre 2010. E poi l'altro snodo centrale, ossia lo spin-off al via dal 1 gennaio 2011. La Fiat intende trasferire una società di nuova costituzione, Fiat Industrial S.P.A. Sono tutte le attività non relative all'auto, veicoli industriali, motori industriali e per il settore del mare, macchine agricole per le costruzioni, oltre che debiti finanziari, mentre invece confluiranno in un'altra società. Entrambe saranno quotate a Piazza Affari. Tutta la parte auto confluirà, ossia Ferrari, oltre naturalmente Fiat Auto, Ferrari, Maserati, Magneti Marelli, Texit, Comau, FPT Powertrain Technologies. Le azioni di Fiat Industrial saranno assegnate agli azionisti Fiat sulla base del rapporto 1-1, e anche questo è importante. Tra l'altro Fiat ha raggiunto un accordo con le banche per un nuovo finanziamento fino a 4 miliardi di euro, come dicevamo oggi è stata tra i premiati del mercato. Questo lo approfondiremo subito dopo i mercati, 17.40, 17.45 circa, con un collegamento da Auburn Hills, che è la sede a Chrysler, dove si sta svolgendo appunto la conference call di Sergio Marchionne con gli analisti. Nel frattempo Fiat è tra le premiate del premio Imprese per Innovazione organizzato da Confindustria in collaborazione con l'associazione Premio Qualità Italia. A margine della presentazione dei premi, Chiara Grandis ha intervistato Diana Bracco, presidente progetti speciali ricerca e innovazione Expo 2015 di Confindustria, in particolare sull'importanza dell'innovazione per incrementare la crescita. Sentiamola. C'è un tessuto di imprese che investono, non è vero che l'impresa italiana non investe, anzi le mappe ci dicono che ci sono regioni che sono in percentuale di investimento e innovazione sul PIL all'altezza di quelle europee. Le politiche dei governi sono sufficienti per favorire l'innovazione in questo momento? L'Italia esce da un periodo in cui l'innovazione con difficoltà è stata percepita come leva strategica. Io credo che adesso stia prendendo piede e del resto va in linea con la visione europea, la visione di una politica economica basata sulla ricerca e innovazione, perché questo è quello che sta facendo l'Europa 2020 e questo è l'atteggiamento che noi speriamo di concordare col governo italiano e che il governo poi porti in Europa e naturalmente gli va data in Italia un'espressione congrua. Dunque questa Diana Bracco. Allora, a proposito di risultati delle società, abbiamo parlato poco fa di Morgan Stanley perché l'abbiamo inserita più in generale nel pacchetto crisi e banche, quindi calma, adesso ci arriviamo alla trimestrale di Apple. Eccola qua, negli utili volano più 78% col boom dell'iPhone, ha fatto il pieno appunto di utili grazie all'iPhone. Vedremo poi che cosa succederà dopo il cosiddetto antenna gate. Le vendite nel secondo trimestre del prodotto di Apple sono aumentate del 61% rispetto al 2009, bene anche l'iPad, sono state vendute 3,3 milioni di unità, quindi secondo trimestre con utile netto pari a 3,25 miliardi di dollari. Benissimo, rimanendo in tema di multinazionali americane, anche Coca-Cola, grazie a Sudafrica 2010, la sponsorizzazione dell'ultima Coppa del Mondo nel continente nero ha fatto impennare i profitti netti del gigante di Atlanta del 16% a 2,37 miliardi di dollari. Il fatturato negli ultimi tre mesi è salito del 4,9%. E veniamo al primo tema di questa giornata, ossia la manovra. Qualche notizia ve l'abbiamo già data, ossia il taglio delle indennità dei parlamentari. Veniamo all'audizione del ministro dell'economia Giulio Tremonti alla commissione bilancio della Camera. Il via libera alla manovra in commissione è previsto per domani. Il Paese nell'insieme ha accettato questo intervento con grande senso di responsabilità, dice il ministro dell'Economia. Ho visto un altissimo senso di responsabilità dal basso, dalle categorie interessate, un minore senso di responsabilità da altri settori, come se ci fosse un attentato di lesa maestà. E proprio a questi altri settori si riferisce il ministro con queste parole. I lavoratori pubblici hanno preso questo provvedimento con grandissimo senso di responsabilità. Questa per la prima volta è una manovra che tocca anche un po' alcuni papaveri. E poi è ritornato su una battuta che già aveva fatto nei giorni scorsi in merito alla fiducia. La fiducia da fiducia, è stato tutto molto concentrato. Molte idee dei partiti della Camera sono state rappresentate al Senato. E poi naturalmente c'è l'altro tema, quello della correzione di bilancio. Vi avevamo riferito lunedì che i tecnici della Camera avevano detto se le previsioni di crescita non saranno rispettate potrebbe rendersi necessario un nuovo intervento correttivo. Ecco cosa dice il ministro. Adesso come adesso, considerando l'andamento non negativo dell'export, dei consumi industriali, di tutti gli indicatori che ci sono, penso che quella ipotesi di rischio di scostamento dello 0, ipotizzato sia abbastanza lontana. Queste dunque le parole del Ministro dell'Economia. Se avremo tempo magari vi faremo sentire anche qualcosina di quel che ha detto nell'audizione del pomeriggio, quella sul federalismo fiscale. Intanto saluto in diretta ai nostri studi di Roma il collega del Sole 24 Ore, Dino Pesole. Dino, buonasera. Buonasera Simone. Allora, io partirei proprio da queste ultime parole di Tremonti che abbiamo sentito, che riguardano questo tema di un eventuale nuovo scostamento, quindi della necessità di un nuovo intervento. È un tema del quale si è dibattuto molto anche nei mesi scorsi. Insomma, già lo stesso Tesoro aveva fatto in qualche modo intravedere questa possibilità, inviando un messaggio al Fondo Monetario Internazionale, che il Fondo Monetario aveva ripreso, e quindi ce l'avevamo relata a refero, non direttamente dal Tesoro. Dino, quali sono le condizioni reali, se puoi aiutarci a capirlo? Beh, certamente c'è un problema che riguarda tutte le manovre correttive, e cioè il margine di effettiva realizzabilità delle misure che vengono proposte. Allora, storicamente c'è un margine che può essere quantificato attorno al 20%, e quindi potremmo ipotizzare che anche questa manovra possa essere realizzata in tutte le sue componenti per il 70-80%. Questo non vuol dire che necessariamente ci sia bisogno di una manovra correttiva. Il problema fondamentale riguarda appunto la variabile della crescita, perché poiché, come sappiamo, il deficit è il prodotto di due elementi, cioè da un lato c'è l'andamento dei conti e dall'altro c'è la crescita. Il timore dell'ufficio del servizio del bilancio della Camera è esattamente questo: poiché la manovra prevede una correzione, un'incidenza sul PIL pari a 1,5 punti a fronte di una correzione programmata di 1,6, ci potrebbe essere bisogno di un nuovo aggiustamento pari a 0,1 punti. Intervento, dicevano i tecnici della Camera, che potrebbe essere superiore se l'economia italiana crescesse meno di quanto ipotizza il governo. E qua siamo al punto. Poiché il governo ipotizza che la crescita si attesterà più o meno attorno all'1,5%, se per caso questo tasso di crescita dovesse essere inferiore, allora probabilmente bisognerà rivedere la situazione in corso d'opera. Però al momento obiettivamente si tratta di ipotesi. Qualcosa di più la capiremo a metà ottobre, quando il governo presenterà alle Camere la finanziaria, perché poi ci sarà pure la finanziaria, che non si chiama più così, si chiama legge di stabilità, e che però conterrà appunto i saldi. E poiché questa finanziaria o legge di stabilità sarà preceduta a metà settembre dal DPF, e lì si capirà se effettivamente le cifre che il governo ha presentato saranno meno attendibili e con quale margine di realizzabilità. Allora Dino, ti chiedo innanzitutto di chiarirci a quanto ammonta questo 0,1%, e in secondo luogo ti chiederei dell'altro snodo, che è quello delle entrate, quello sul quale forse si sono appuntate un po' più di critiche complessivamente, ossia le speranze per esempio derivanti dall'evasione fiscale. Questo naturalmente al di là dei tagli di spesa che, insomma, almeno in teoria sono certi. E proprio per questo si parla di margini di incertezza. Allora, lo 0,1 è cosa minima, si tratta di una correzione. Se fosse lo 0,1 sarebbe contenuta in un miliardo e mezzo, quindi non sarebbe certamente questo a mandare all'aria i conti. Il problema riguarda appunto la voce di nuove entrate, esattamente quello che tu dicevi poc'anzi, poiché questa è una manovra che effettivamente prevede maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale, che vengono quantificate in oltre 9 miliardi nel biennio. Ecco, qui c'è un problema. Ovviamente tutti d'accordo sul fatto che la lotta all'evasione fiscale vada condotta con forza e con determinazione. Il problema fondamentale è cifrare prima questi incassi, che come tali, poiché si tratta di operazioni che vanno riscontrate giorno per giorno nell'attività poi di accertamento, di riscossione, eccetera, eccetera, potrebbe esserci un margine di rischio. Se per caso qua ci fosse un minore introito, là ci sarebbe un problema. In più, occorre aggiungere che se per caso, anche qui stiamo ipotizzando, ci fosse una minore crescita, obiettivamente la minore crescita ha un effetto immediato sulle entrate fiscali. Diminuiscono le entrate fiscali e dunque qui c'è il problema che potrebbe evidenziarsi. E poi c'è tutto l'aspetto della spesa, che è obiettivamente tutto da monitorare, da controllare. E certo. Anche di questo ha parlato poi nel pomeriggio il Ministro dell'Economia nell'audizione sul federalismo, riferendosi alle regioni, allo scontro che c'è stato con le regioni sul taglio della spesa. Ha detto: troveremo una quadra. Però, visto che si accennava al fisco, vi vogliamo far sentire questo, perché è uno dei grandi temi di politica economica degli ultimi anni, uno dei grandi interessi delle imprese, ossia la possibilità di un taglio, di una riduzione dell'IRAP. Ascoltiamo Tremonti. Se tu butti giù un trave sulla strada, poi non è colpa un macigno, non è colpa di chi non va avanti, è che è difficile toglierla. Perché se tu introduci nel sistema un tributo così grosso, con quelle finalità, toglierlo è piuttosto complicato. Noi stiamo cercando di ragionare anche intorno all'IRAP, non è semplice perché è grande. Come è stato grande, come grande il tributo, è grande anche l'errore. Ebbene Dino, questo è un tema che è un po' uscito dall'agenda di politica economica per ovvi motivi, crisi greca, conseguenti manovre di austerity, però è un tema che è rimasto sul piatto politico a lungo, si sono ipotizzate tante cose anche da parte della Lega, da quello che si è riuscito ad annusare in giro si sta pensando a qualcosa di nuovo? Guarda, abolire l'IRAP d'un colpo è impossibile, perché l'IRAP garantisce oltre 40 miliardi di euro a beneficio delle regioni e dunque per abolire un'imposta di questa portata occorrerebbe trovare delle entrate compensative. Quindi questo è assolutamente impossibile farlo comunque con un'operazione netta e secca tutta d'un colpo. Quello che si può fare è in realtà quello che già poi è stato fatto in parte anche dal precedente governo, cioè quello di intervenire ad esempio su alcune componenti dell'IRAP e ad esempio intervenire sulla componente del costo del lavoro, e questo è una delle richieste ad esempio delle imprese, cioè cominciare ad abbassare il prelievo per quel che riguarda la componente costo del lavoro, che è una delle componenti che determinano la base imponibile di questa imposta. Per il resto bisogna aspettare obiettivamente che si tempi consolidi migliori. No, che si consolidi questo percorso di attuazione del federalismo fiscale, perché soltanto attraverso un ridisegno complessivo della fiscalità a livello regionale e locale si potrà immaginare una sostituzione di un'imposta di questo tipo. Tra l'altro occorre ricordare che l'IRAP, che venne istituita nel 98 dall'allora ministro Visco, sostituiva 7 imposte, tra cui ricordo i contributi sanitari, la tassa sulla salute, chi se la ricorda ancora. E quindi era nell'intenzione di Visco una manovra che doveva semplificare il sistema. Poi però, come sappiamo, l'IRAP è stata una delle imposte più controverse e più contestate, perché in effetti obiettivamente ha un prelievo molto alto. Sì, e qualche meccanismo perverso sicuramente. Esatto. Bene, grazie a Dino Pesolo del Sole 24 Ore per essere stato con noi, per averci aiutato anche a fare il punto sulla manovra che, lo ricordiamo, domani poi verrà approvata dalla Commissione Bilancio della Camera. Grazie Dino e buonasera. Grazie a voi. Buonasera ad Eleonora Micheli, Radio Corriere del Sole 24 Ore. Buonasera a tutti. Allora, giornata complessivamente positiva. Per dare un'idea, il FTSE MIB ha chiuso con un guadagno dello 0,76% e il FTSE All Share dello 0,65%. Tutto questo nonostante l'America stia scendendo, un calo dello 0,23% sul Dow Jones. Vanno più o meno parallele a Milano le altre piazze finanziarie europee, se si fa eccezione per Francoforte. Un guadagno dello 0,38%. Come mai è andata così bene questa giornata? Oddio, così bene, in realtà avevamo toccato momenti migliori nell'arco del pomeriggio e della mattinata, no Eleonora? Esatto, a metà giornata infatti gli indici salivano del 2% circa, poi come hai detto tu la virata al ribasso di Wall Street ha scoraggiato un po' anche gli investitori europei, gli indici del vecchio continente hanno dunque rallentato il passo, pur chiudendo comunque in terreno positivo. Quindi le cose complessivamente oggi sono andate bene. Ti chiediamo innanzitutto di Fiat. Fiat è stata decisivamente la star della seduta, i titoli sono stati ben comprati sin dalle prime battute, hanno chiuso in progresso del 6,7%, gli analisti sono molto positivi sulla società, sono rimasti sorpresi soprattutto dai conti di bilancio nettamente superiori alle stime, anche quelle più ottimistiche. Questo per quanto riguarda Fiat, vi ricordo che tra poco approfondiremo l'argomento e vedremo anche, ma io dubito che ci sia già una risposta, di rispondere alla domanda dell'ascoltatore che ci chiede che fine faranno le Fiat risparmio. Credo che i dettagli su questo arriveranno un pochino più avanti, insomma ci sarà necessariamente un prospetto informativo e poi l'assemblea convocata per il 16 di settembre chiamata a decidere su queste scelte. In evidenza vediamo oggi Italcementi, un più 2,70%, e Bulgari, un più 3,22%, la corsa prosegue. Sì, Bulgari la corsa prosegue, ieri la Hermès, la società del lusso di Oltralpe, ha fatto sapere che nel primo semestre le vendite sono salite di oltre il 20%, ovviamente questo ha acceso i riflettori su tutto il comparto del lusso. A Piazza Affari in particolare da ieri sono ben comprate le Bulgari, che anche oggi hanno vantato questo progresso di oltre il 3%. Per quanto riguarda le Italcementi, a riaccendere i riflettori sull'azienda è stato un articolo proprio del Sole 24 Ore, secondo il quale l'azienda starebbe rinegoziando linee di credito da parte delle banche. In verità fonti vicine alla società hanno indicato che l'operazione rientra in attività ordinaria di tesoreria, ci sono effettivamente dei contatti, anche se al momento non è stata presa decisione alcuna. Tra poco le note dolenti, che a dirvi la verità oggi sono poche, però prima Telecom Italia, un più 2,62%, il quarto titolo migliore sul FTSE MIB. Sì, Telecom Italia infatti ieri era andata male, ormai ha un andamento a zig zag negli ultimi giorni, oggi è sicuramente rimbalzata, complice anche la notizia che è stato varato a Trento il progetto per lo sviluppo delle reti di nuova generazione, era presente tra l'altro anche l'amministratore delegato. Si avvicina comunque anche la data di fine luglio, entro la quale verranno date indicazioni sul piano di esuberi, ricordiamo che la società ha in progetto di licenziare 3.700 persone entro il giugno 2011, ma lo stesso governo sta cercando di frenare e sta cercando altre soluzioni. E veniamo all'annoso capitolo stress test, ossia i test di resistenza in scenario di crisi delle banche. Continuano a circolare indiscrezioni, lo fanno quasi quotidianamente, francamente non vediamo l'ora che arrivino questi risultati. Banche complessivamente bene, Unicredit un più 0,66%, giù Intesa San Paolo, il titolo peggiore sul FTSE MIB, un meno 1,38%, come mai? Sì, in effetti i titoli hanno fatto peggio per tutta la seduta, c'è il timore che Intesa San Paolo possa a breve annunciare un'acquisizione in Polonia, infatti in corsa per rilevare la banca polacca Zakotny, e sarebbe rimasta in corsa insieme ad altre banche, la Bank Polski, che è appunto polacca, il Banco Santander e BNP Paribas. Allora, negative anche Fondiaria, un meno 0,90%, Atlantia dello 0,34%, il Monte dei Paschi dello 0,32%, cali frazionali per Unipol, Snam Rete Gas e Finmeccanica, meno 0,18%, meno 0,07%, meno 0,06% rispettivamente, quindi siamo a ridosso della parità, mentre invece continua a scendere Risanamento. Sì, il risanamento in questo caso ovviamente sono le notizie emerse ieri, ricordiamo che la Guardia Tributaria ha praticamente sequestrato l'area di Montesiti Rogoredo, che fa capo a Santa Giulia, che a sua volta fa capo appunto al risanamento. A questo punto il mercato ipotizza che il gruppo mobiliare sia costretto a svalutare tutta l'area o a costituire addirittura dei fondi di rischio. Grazie dunque anche per oggi ai colleghi di Radio Cori Il Sole 24 Ore, ad Eleonora Micheli per questi aggiornamenti. Vi diamo un quadro finale di giornata. Si diceva di Finmeccanica in calo dello 0,06%, poi troviamo il Banco Popolare, CIR, anche questo appena sopra la parità. Popolare di Milano ed Eni insieme a Mediobanca e UbiBanca su di circa lo 0,2%, A2A in rialzo in mezzo punto percentuale, così come Campari ed Enel, su dello 0,65%, moderna, l'automatica e Unicredit dello 0,66, come si diceva. Mediaset più 0,70%, Buzzi più 0,7%, Impregilo più 0,99%, un punto percentuale di guadagno su Ansaldo, STS e Tenaris. Geox su dell'1,12, Generali dell'1,14, Parmalat dell'1,35, e da qua veramente tutto benissimo. Mediolanum 1,5%, Pirelli 1,80%, Luxottica 1,90%, Saipem dell'1,99%, bene ST Microelectronics un più 2,17%, Exor naturalmente sulla scorta di quel che sta succedendo a Fiat più 2,35%, Azimut più 2,45%, Autogrill più 2,46%, Prismian 2,5%. Gli altri vi l'abbiamo detti e veniamo proprio alla regina del listino, Fiat. E dunque, consiglio di amministrazione per l'azienda a Auburn Hills, negli Stati Uniti, sede della Chrysler. Questa mattina sono stati diffusi dati che vi abbiamo riferito nei giornali radio in apertura di Focus Economia, dati complessivamente positivi e definiti veramente ottimi dall'amministratore delegato Sergio Marchionne. Utile netto nel trimestre a 113 milioni, ricavi in crescita del 12,5%, sul semestre i ricavi a 27,7 miliardi e l'utile a 92 milioni. Marchionne che dice eccezionale, superate tutte le attese. E poi naturalmente c'è il tema dello scorporo, del cosiddetto spin-off dell'auto, che poi in realtà è più che altro una separazione tra le attività non auto e quelle auto. Ed è proprio con Auburn Hills che ci colleghiamo, con l'inviato del Sole 24 Ore, Andrea Malan. Andrea, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, io vorrei partire con te proprio dai conti che, come abbiamo visto, sono stati ben accolti dal mercato insieme alle notizie sullo spin-off. Erano nelle attese? I conti sono nettamente superiori alle attese. L'utile operativo è più che raddoppiato. Adesso non ritrovo la cifra esatta, è più che raddoppiata a 651 milioni di euro e il netto è tornato in nero per 113 contro 179. Soprattutto credo ha sorpreso positivamente l'andamento dell'auto, che nonostante il calo dei volumi, cioè una perdita del 6% dovuta alla caduta delle vendite in Europa, è riuscita ad aumentare sia pure di poco i profitti rispetto allo stesso trimestre di un anno fa, grazie al contenimento dei costi da un lato, dall'altro a un effetto cambi positivo soprattutto delle attività in Brasile, ma anche per quanto riguarda il gruppo di quella americana, cioè la svalutazione dell'euro in pratica ha reso più consistente il valore in euro dei dollari guadagnati in Brasile e guadagnati negli Stati Uniti con la CNH. Queste sono un po' le tendenze. Credo che abbia pesato in maniera positiva anche il fatto che l'azienda abbia detto che sicuramente rivedrà al rialzo i target per l'intero 2010. Ricordiamo che l'obiettivo in termini di utile operativo era 1,1 miliardi, 1,2 miliardi, solo nei primi sei mesi siamo già arrivati a 1 miliardo, quindi è chiaro che Sergio Marchionne in occasione della prossima trimestrale rivedrà al rialzo questo risultato. Ma se posso passare direttamente al tema successivo, l'altra notizia importante di oggi è quella che Sergio Marchionne ha dato nel corso della conference call con gli analisti, e cioè che la Fiat ha dato via libera all'investimento da 1 miliardo complessivo in Serbia per produrre la futura piccola monovolume, che finora è chiamata L0, è in sostanza l'erede della Multipla e della Musa. La notizia è che l'auto verrà prodotta in Serbia e non più a Mirafiori, come inizialmente era previsto. Sì, e qua naturalmente prevediamo conseguenze pesanti probabilmente sul fronte sindacale. Nel frattempo arriva una notizia che a Sergio Marchionne non farà assolutamente piacere, ossia che Moody's ha appena messo sotto revisione il rating BA1 assegnato a Fiat in vista di un possibile declassamento, di un possibile downgrade alla luce proprio dello spin-off annunciato dal gruppo. Saluto intanto il professor Giuseppe Berta, docente di storia dell'economia all'Università Bocconi di Milano, editore della stampa e del Sole 24 Ore, ha scritto oggi proprio sul tema di Fiat. Buonasera professore. Buonasera. Se l'attendeva una mossa di questo genere, secondo lei che conseguenze può generare? Se ci riferisce alla scelta della Serbia, sì, devo dire, la Serbia è considerata una zona di investimento, È certo che alla luce della situazione sindacale italiana acquista un rilievo particolare, perché vuol dire che le tensioni sindacali in Italia sono tali da generare una diffidenza nel gruppo Fiat e a portare delle scelte produttive che potevano essere localizzate in Italia fuori d'Italia. Voglio dire che insomma la vicenda tormentata di Pomigliano sta lasciando degli strascichi, non solo degli strascichi perché come abbiamo visto in questi giorni sono state combinate delle sanzioni disciplinari, dei licenziamenti ai rappresentanti sindacali al FUMCGL, ma perché evidentemente la Fiat non si sente sicura del modello di relazioni industriali che è attivabile in Italia. La Fiat a questo punto io credo si stia orientando a chiedere particolari condizioni di flessibilità in tutte le sue produzioni in Europa. E allora questo significa cambiare, intervenire sulla disponibilità nell'organizzazione del lavoro e così via. Questo certamente porta in tensione rispetto ad assetti sindacali consolidati come sono quelli italiani. Tra l'altro, proprio a proposito di Mirafiori, oggi sono state annunciate nuove settimane di cassa integrazione. Torneremo tra un attimo sul tema sindacale, vedremo se saremo in grado di farvi sentire un'intervista che abbiamo realizzato col segretario generale della CISL Bonanni. Nel frattempo io vorrei tornare sul tema societario con Andrea Malan. Andrea, ci spieghi un attimo questo spin-off? Mi sembra che grosse novità su questo fronte non ce ne siano state, cioè più o meno come era stato delineato inizialmente. Inizialmente il progetto, no? No, il progetto rimane come era stato delineato, è stata fissata al 16 settembre l'assemblea degli azionisti che dovrà dare via libera al progetto, i quadri dirigenti delle due nuove entità verranno annunciati nel dettaglio nell'ultimo trimestre e... Abbiamo perso il collegamento con Andrea Malan, vedremo di ripristinarlo tra poco perché insomma abbiamo anche delle altre domande per lui che ci arrivano tra l'altro dagli ascoltatori. Professor Berta, chiederei a lei una valutazione su questa operazione Fiat e anche sul fatto che questo consiglio di amministrazione si sia, se vogliamo, simbolicamente svolto proprio negli Stati Uniti, no? Lei scriveva oggi sul Sole, un segnale. Direi che le prossime scadenze importanti per Marchionne saranno in America. L'obiettivo è riportare Chrysler a Wall Street, riportare Chrysler nella borsa americana. Questo, tra l'altro, non riguarda solo Chrysler, riguarda anche General Motors, che ha lo stesso obiettivo più o meno negli stessi tempi di Chrysler. Questo significa che cambiare in profondità l'attuale compagine azionaria che è di emergenza, nel senso che la presenza del fondo pensione del sindacato dell'automobile americano è una presenza dettata dall'emergenza, che non può essere protratta a lungo, non solo perché è anomalo che il sindacato dell'automobile sia il principale azionista della Chrysler, ma perché il sindacato dell'automobile ha bisogno di risorse per offrire le prestazioni sanitarie, le pensioni di vecchiaia ai propri iscritti. Dunque questa è un'anomalia che Marchionne deve rimuovere. La presenza della Fiat in America ha il significato di un pieno avallo a questa trasformazione, ricordando tutti, all'opinione pubblica americana in primo luogo, che l'obiettivo è la confluenza, la fusione, un merger tra queste due imprese che devono dare luogo a un nuovo grande gruppo dell'automobile, davvero di capacità e di portata globale. Ecco, adesso entriamo nel vivo, dopo aver delineato le premesse dell'operazione, si tratta di portare a compimento questo cambiamento e sarà un cambiamento che avrà dei tempi abbastanza stretti, cioè prevede prima il passaggio alla borsa di New York, poi prevede la definizione in termini di valore del nuovo assetto azionario e il merger, la fusione vera e propria. Queste sono tappe che io credo vedremo di spiegarsi nel giro di un anno e mezzo, due. Abbiamo ripristinato il collegamento con Auburn Hills e con Andrea Malan. Andrea, allora ci riferivi dell'assemblea che sarà il 16 settembre, insomma poi progressivamente avremo naturalmente maggiori dettagli anche finanziari sulla questione. Ci chiede intanto un ascoltatore al 349-238-6666 se quel che abbiamo capito dal comunicato, il debito finanziario viene caricato sul cosiddetto spin-off, insomma diciamo sulla parte non auto, e ci chiede come mai. Dunque, no, i debiti finanziari dovrebbero essere ripartiti, questo è stato confermato dalla Fiat, circa 50-50 fra le due società. Okay, quindi non avevamo, quindi avevamo capito male noi, ok. Sì. Si è aggiunto un dettaglio, e cioè che invece per quanto riguarda la liquidità, che è consistente, la liquidità ovviamente lorda, quindi prima di considerare i debiti, che è di circa 13 miliardi, andrà per 10 miliardi all'auto e per 3 miliardi a Fiat Industrial. Teniamo conto che il business dell'auto è molto più ciclico e ha una maggiore necessità di cassa anche per finanziare gli investimenti rispetto ai camion e ai trattori. Nei primi sei mesi di quest'anno sono stati investiti 1,2 miliardi di euro dall'auto e solo 300 milioni circa da camion e trattori. Questo dà un po' l'idea della differenza. Si diceva, Andrea, che le cose sono andate piuttosto bene anche sul fronte dell'auto, insomma, tra le altre cose è riuscita a mantenere il primato in Brasile Fiat. Sì, ha mantenuto il primato in Brasile pur con una quota in lieve calo grazie al lancio della nuova Uno, che è un modello specifico per il mercato brasiliano che ha avuto un buon successo. Il Brasile, diciamo che è un caposaldo della strategia estera della Fiat, anzi diciamo che ha raggiunto ormai dimensioni, compresi i veicoli commerciali, che non sono lontane da quelle del mercato italiano. E in effetti, ricollegandomi a quello che diceva il professor Berta in precedenza, se si considera anche Chrysler, è chiaro che il peso del mercato italiano e della produzione in Italia sull'intera Fiat Auto, se si ipotizza un'unione con Chrysler, sarà sempre più limitato. Sergio Marchionne non perde occasione di ripeterlo, nel senso che come oggi ha fatto questo annuncio sulla Serbia, il suo ragionamento è: noi possiamo andare a produrre in Brasile, in Polonia, in Serbia, l'Italia è una delle possibilità, scegliamo di farlo e tra l'altro l'investimento a Pomigliano di 700 milioni per la Panda non dovrebbe risentire di questa decisione serba, almeno per ora, ma vogliamo farlo a determinate condizioni, quindi è determinato a utilizzare la leva della concorrenza internazionale per ottenere condizioni comparabili a quelle che ci sono attualmente negli altri stabilimenti del gruppo. Professor Berta, un'ultima domanda per lei. Vede uno sbocco, le chiedo di essere breve perché siamo quasi in chiusura, vede uno sbocco a tutta questa vicenda sindacale, insomma, prima Pomigliano, sulla quale insomma c'è chiarezza ma fino a un certo punto, e adesso questa vicenda di Mirafiori che insomma, qualche effetto probabilmente lo produrrà. Guardi, vedo uno sbocco nel senso che credo che siamo un tentativo di cambiamento del sistema di relazioni industriali imposto dall'alto. Nel senso che mi sembra che la Fiat abbia maturato la convinzione in questi ultimi tempi, anche motivata dall'elogio al comportamento del sindacato americano, che occorre puntare molto di più sugli aspetti di gruppo del contratto e perdendo di vista il contratto nazionale. Questo potrebbe essere una svolta, nel senso che andando lungo questa strada certamente si esce dal modello sindacale italiano consolidato e non solo, e si aprirebbe, se la Fiat davvero si decidesse a incamminarsi in questa direzione, si prenderebbe una svolta che potrebbe influenzare altri grandi gruppi industriali. Grazie dunque al professor Giuseppe Berta, docente di storia dell'economia all'Università Bocconi di Milano, editorialista della Stampa. Buonasera professore. Buonasera. E grazie anche ad Andrea Malan, inviato del Sole 24 Ore ad Auburn Hills. Andrea, buonasera. Arrivederci.